Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Continuiamo anche oggi a indagare sui motivi dell'espatrio di migliaia di giovani professionisti che hanno lasciato e stanno lasciando in questi anni l'Italia. La domanda che fa da sfondo alla nostra inchiesta a puntate è sempre la stessa: perché tanto al nord quanto al sud se ne vanno? Noi cerchiamo di rispondervi raccontando le loro storie, le loro esperienze e portandovi il loro punto di vista. Lo facciamo attraverso la loro viva voce. Oggi aggiungiamo un altro tassello. Scelta è ricaduta poi sulla Svezia a causa del lavoro di mio marito, appunto, che è piuttosto particolare. Ha scelto uno shopping, visto che lui è meteorologo qui in Svezia, perché si trova al centro meteorologico nazionale svedese. Alla mia mail di richiesta informazioni per un eventuale lavoro mi hanno risposto dopo 15 minuti da che l'avevo inviata. Ero ancora seduta davanti allo schermo e mi è arrivata la risposta, per cui io non ci potevo nemmeno credere. Immagino non ti conoscessero, non avevi raccomandazioni? Assolutamente no. Quella che state ascoltando è la storia di Silvia Mainardi, giovane medico italiano espatriata in Svezia. Tra poco vi racconteremo come è arrivata nel profondo nord europeo a quasi 200 km da Stoccolma. Prima però il notiziario. Il Ministero della Salute metterà a punto un database per identificare i ricercatori italiani che lavorano all'estero nel campo della biomedicina, con il fine di intraprendere percorsi di collaborazione con le strutture italiane e affrontare il problema della fuga dei cervelli. Lo ha annunciato il Ministro della Salute Ferruccio Fazio nel corso di un convegno a Bologna sulla ricerca in sanità. L'iniziativa vedrà come primo passo un convegno previsto per la prossima primavera, durante il quale saranno invitati i ricercatori italiani che operano in strutture straniere. A 39 anni, unico italiano, è stato eletto membro dell'American Law Institute, l'organismo che si occupa della riforma del diritto statunitense. Ma Giovanni Comandè, ordinario di diritto privato comparato alla scuola Sant'Anna di Pisa, spera di non essere costretto a lasciare l'Italia. «Ho rifiutato già due volte di abbandonare il paese», racconta Comandè. «Spero di poterlo fare una terza volta, perché mi auguro che l'Italia sappia davvero rivivere una stagione di rinascita. Se i migliori talenti italiani scappano», dice Comandè, «non è solo colpa della politica, ma anche della società civile e di una università che spesso è autoreferenziale e tollera poco e male i criteri di valutazione esterna. Una notizia di servizio infine: il Comitato Assistenza Italiani ha lanciato un nuovo strumento online che mette in contatto giovani connazionali che cercano un lavoro con organizzazioni e aziende in Australia. Maggiori informazioni al sito www.coasit.org.au. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a latitudini molto nordiche. Sentiamo subito di chi parliamo. Nome: Silvia. Cognome: Mainardi. Età: 31 anni. Città di origine: Vicenza. Studi: liceo classico a Vicenza, poi la laurea in medicina e chirurgia a Padova e mi sono specializzata in medicina interna con indirizzo urgenza sempre a Padova. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2009. Per andare dove? In Svezia. Perché? Perché qui ho trovato, con un semplice colloquio di lavoro, quello che in Italia avrei ottenuto dopo anni di precariato e di concorsi non, diciamo, poco limpidi. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono medico specialista in un ospedale pubblico. Dove? A Norrköping, è una città che si trova a 170 km a sud-ovest di Stoccolma. Tornerai? Mai dire mai, ma per il momento io dico no, grazie. Allora, questa è la presentazione di Silvia Mainardi, la protagonista di questa puntata di Giovani Talenti, un giovane medico 31enne veneta. E Silvia, prima di iniziare diamo anche qualche dato interessante. Tra il 2003 e il 2007 ben 1048 camici bianchi italiani sono emigrati nel Regno Unito, attratti da maggiori possibilità di crescita professionali e da stipendi anche più elevati. Questo secondo dati del General Medical Council britannico. Aggiungiamo anche che nell'estate del 2009 il Corriere della Sera riportava come ben 400 tra medici, infermiere e ostetriche si misero in fila a Bologna ai colloqui di selezione per un posto di lavoro all'estero. Solo 100 erano quelli disponibili. Le destinazioni in palio: Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi. Ad attenderli oltre frontiera c'era un contratto a tempo indeterminato più benefits vari. Ma è così difficile fare il medico in Italia, Silvia? In sé non è difficile. Il problema è riuscire ad avere un contratto appunto a tempo indeterminato e una buona posizione subito dopo aver

che è durato 10 anni, tra un contratto Coco e il successivo, selezioni, concorsi, con contratti che erano annuali o addirittura a rinnovo semestrale. Pensate che ne ho ben 12 collezionati in un faldone fino adesso. Poi a febbraio 2006 ho conosciuto Silvia, ci siamo sposati nell'estate del 2008, e poi quando cominci a pensare, e non più da solo ma con la testa di due persone, allora spesso le prospettive, le motivazioni e gli stimoli possono cambiare. E quindi dopo aver trascorso più di 10 anni nello stesso posto di lavoro, proprio nel momento in cui alla fine avevo trovato l'assunzione a tempo indeterminato vincendo il concorso, alla fine avevamo deciso di dare una svolta alla nostra vita, anche perché nel frattempo mi ero reso conto che un po' le prospettive di carriera per me dove lavoravano erano praticamente nulle, e inoltre anche la qualità del lavoro stava andando leggermente peggiorando. Così siamo finiti in Svezia, senza prima aver però rivolto sguardo anche altrove. Avevamo pensato agli Stati Uniti, in Oklahoma, dove spesso noi andavamo sia per lavoro, addirittura avevamo pensato anche a Dubai, che era molto di moda alcuni anni fa. Lì ero anche arrivato a trovare quasi lavoro all'aeroporto come meteorologo, poi Svizzera e Germania, alla fine siamo arrivati qui in Svezia. Ecco, Gabriele, colpisce un po' quello che dice, cioè il fatto, sì, io la mia carriera, in qualche modo il mio percorso in Italia ce l'avevo, avevo un posto fisso, però poi le prospettive non erano un po' quello che erano, quindi quasi preferisco candidarmi per un posto al Servizio Meteorologico Nazionale Svedese e continuare la mia carriera lì. Però Silvia, c'è anche un'iniziativa che tu e Gabriele, ed è anche il motivo per cui abbiamo chiamato Gabriele in onda, state ormai portando avanti con successo da mesi dalla Svezia. Ce la racconti? La nostra iniziativa è un blog, si chiama One Way to Sweden o all'italiana solo andata per la Svezia, ed è un po' la nostra casa virtuale. Questo blog è nato alla fine del marzo 2009, quando ormai eravamo certi di poter partire per il nord Europa per iniziare una nuova vita qui, ed era inizialmente un modo per tener vivi un po' i contatti con gli amici, parenti che a malincuore comunque lasciavamo in Italia. E poi ci siamo fatti prendere un po' dall'entusiasmo e abbiamo iniziato anche a raccontare, a raccontarci quasi ogni giorno, e quindi sul blog ci sono un po' tutte le nostre aspettative, le difficoltà, le gioie e i desideri che in questi primi 9 mesi di Svezia abbiamo incontrato. E quindi questo nostro modo di aprirci verso gli altri, insomma, rappresenta un po' la cosa bella del nostro blog, perché sono arrivati anche i visitatori, che all'inizio erano qualche decina, e adesso sono più o meno qualche centinaio. Sono, diciamo, in generale giovani e anche meno giovani che, come noi, hanno tante speranze e tanti sogni per la famiglia, per i figli, anche per se stessi, e che si trova a combattere ogni giorno contro le difficoltà di una vita che in Italia forse non è quella che desideravano. Ecco, su questo chiamerei in causa Gabriele, anche perché voi state pensando di trasformare questo blog in un libro, che è una bella idea veramente, ma quali sono un po' i feedback, le reazioni che avete, che le storie che leggete dall'Italia sul vostro blog? Abbiamo aperto questo blog, i visitatori sono parecchi andati aumentando giorno per giorno, quindi adesso, come hai detto Silvia, ce ne sono centinaia al giorno, e con le visite, i commenti, arrivano ovviamente anche le mail, che certe volte appunto non possiamo scrivere. Sono mail di persone che ci scrivono un po' da tutta Italia, sia dal nord che dal sud, che non ce la fanno più o comunque sono stanchi della loro quotidianità, perché vedono proprio che le speranze per loro e anche per i propri figli, per una vita magari migliore, quella che avrebbero voluto, non sono proprio quelle desiderate. Quindi ci cercano e ci chiedono: ma dateci qualche dritta, aiutateci, io per esempio faccio il ristoratore, faccio il pizzaiolo, sono programmatore, sono commercialista, cioè veramente… Persone da tutti i settori. Sì, ci sono dei periodi che riceviamo anche 1 o 2 mail al giorno, è un po' anche difficile starci dietro. Sta diventando quasi un lavoro. Grazie Gabriele, grazie per essere intervenuto. Con te Silvia invece chiudiamo anche questo spazio di intervista da Norrköping con i consigli. Silvia, quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando anche tra le varie vie di uscita a un espatrio all'estero? Io consiglierei in ogni caso di partire. È in ogni caso appunto un'esperienza che arricchisce anche in considerazione di un eventuale rientro in Italia, non si sa mai. E comunque io credo che non sia bene avere rimpianti per un sogno che si sarebbe voluto inseguire e che invece non si è fatto, quindi partite. E tu a quali condizioni eventualmente potresti prendere in considerazione un tuo ritorno in futuro? solo se in Italia ci fossero condizioni lavorative che fossero almeno pari a quelle che mi hanno offerto qui in Svezia. E in questo sottolineo che l'aspetto economico non è né l'unico e nemmeno il più importante. E al di là del lavoro vorrei trovare un paese in cui la vita di ogni giorno non sia una continua difficoltà e dove venga dato il giusto riconoscimento al merito e alla cultura di ognuno. Ed è anche un po' l'augurio che ci facciamo e che estendiamo a voi italiani che ci seguite dall'estero. Vi ricordo ancora, per chi volesse leggere o entrare in contatto con Silvia e Gabriele, l'indirizzo internet del loro blog onewaytosweden.blogspot.com. Tante le notizie e le curiosità che potete leggere, oltre a delle gallerie fotografiche sulla Svezia davvero mozzafiato. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi vi presentiamo la più grande associazione virtuale di italiani espatriati, italiansonline.net. Sentiamo Matteo Rizzi, uno dei tre fondatori di Italians Online, nonché presidente dell'associazione. Italians Online nacque nel marzo 2003, quasi per caso, dopo una pizza a Parigi con Bebe Severgnini. E l'idea fu quella di semplicemente avere un posto online per pubblicare le foto della pizzata e farla vedere ai genitori a casa, e rapidamente si è trasformato in un'infrastruttura praticamente che dava la possibilità a chiunque volesse nel paese che lo stesse ospitando in quel momento aprire una sezione di Italians Online per poter far comunicare, diciamo, i compatrioti del posto, potesse farlo. Rapidamente quindi il Italians Online, che appunto aveva soltanto qualche decina di persone a Parigi, si è trasformato in un network che oggi conta quasi 80.000 persone in 85 sezioni diverse, anche se ovviamente le città in cui gli italiani vivono sono molto di più di 85. 85 sono semplicemente il numero di posti in cui esiste una sezione locale gestita da espatriati locali che appunto offrono sia servizi che occasioni di incontro che informazioni agli italiani del posto e a coloro che volessero visitare queste città. E andiamo subito anche a parlare allora del tipo di attività che vengono fatte e anche della possibilità. Come ci si iscrive a italiansonline.net? Per iscriversi a Italians Online è semplicissimo, basta andare su www.italiansonline.net, compilare il modulo di iscrizione, scegliere un nickname e si è online. Gran parte del contenuto è visibile a chiunque voglia, diciamo, visitare il sito. Se poi però ovviamente uno vuole contribuire, porre una domanda o iscriversi a un evento, a quel momento è necessario iscriversi. E che tipo di attività vengono fatte a livello, diciamo, locale anche da parte delle sezioni? Statisticamente Italians Online fa qualcosa come un migliaio di eventi all'anno, divisi nelle varie sezioni, e gli eventi vanno da una pizzata in compagnia a un corso di golf, a un'attività per i bambini, a una visita a un museo, insomma qualunque opportunità si ha per incontrarsi, secondo ovviamente la tipologia di paese. È chiaro che a Oslo magari si fa una slittata insieme con i bimbi e a Sao Paolo magari si fa un barbecue in campagna, insomma dipende un po'. Comunque gli eventi sono svariati e l'unico limite è la fantasia e la disponibilità degli organizzatori. Voi comunque siete forse un network diverso da quelli precedenti, da quelli che si occupano più della vecchia immigrazione. Voi siete un network che si rivolge soprattutto a un target giovane. Allora, che impressione hai di questa nuova immigrazione? Li accomuna sicuramente un desiderio di esplorare realtà nuove, date da diciamo mettersi al di fuori della propria zona di confort, come si dice. E il punto numero due è sicuramente il fatto che all'estero ci sono molte più possibilità di essere riconosciuti professionalmente e economicamente anche, e questo lo dicono le statistiche. E sono mediamente giovani? Sì, la popolazione di Italians Online è fra i 30 e i 45 anni. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La domanda della scorsa settimana era: per quale motivo espatriano i giovani professionisti italiani? Per ragioni di stipendio, maggiore meritocrazia, prospettive di carriera? Così ci avete risposto. Filippo dall'Olanda. La mia esperienza è che la maggior parte dei giovani professionisti espatriano per le maggiori prospettive che vi sono all'estero, soprattutto nei paesi dell'Europa e dell'America settentrionale, e per la mancanza di centri di eccellenza in Italia. In quest'ultimo caso, qualora ve ne siano, spesso le condizioni di lavoro sono legate a un continuo precariato, con il contestuale pregiudizio anche delle opportunità di fare carriera. Essendo un libero professionista, la mia decisione di espatriare è stata più che altro dovuta a motivi di correttezza commerciale, di notevole semplificazione degli obblighi normativi gravanti e di un migliore accesso al credito imprenditoriale, esempi questi che mettono spesso in luce una certa arretratezza del sistema Italia. Marco, musicista di un'importante orchestra del nostro paese, ci ha scritto per raccontare la storia di un flautista vincitore di concorso finito in Germania alla Bayerische Staatsoper dopo che in Italia, nonostante il concorso vinto, non si era più visto offrire alcun tipo di contratto. E conclude: pur essendo la nostra un'importantissima realtà musicale a livello internazionale, come dipendenti stiamo lottando da 2 anni per far assumere talenti che hanno vinto un concorso aperto a tutta la comunità europea. Noi, più che una battaglia sindacale, la consideriamo piuttosto una battaglia di civiltà. Auguri! E infine Giorgia, neolaureata in scienze della formazione e prossima a un espatrio in Danimarca per un master di 2 anni, ci scrive: noi studenti non emigriamo solo per ampliare i nostri orizzonti e metterci in gioco per crescere in un'ottica più ampia di cittadini del mondo, ma soprattutto perché all'estero l'istruzione è in funzione dei giovani. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. In cosa si differenzia il concetto di meritocrazia in Italia e all'estero? Quanto è diverso il processo selettivo? Come cambia il concetto di raccomandazione o segnalazione? Per contattarci, per scriverci, potete sempre usare la nostra casella email a giovanitalenti@radio24.it, oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui anche questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online alla casella giovanitalenti@radio24.it. Noi invece ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.